Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Cominciamo da una buona notizia che arriva dall'Aquila. I ragazzi di due classi delle quarte e quinte delle scuole superiori, ospiti della Tendopoli di Paganica, potranno fare un periodo di stage presso il Parlamento. L'annuncio è arrivato da parte della Presidente della Commissione Cultura della Camera, Valentina Prea. Io me lo sono chiesta tante volte, immagino anche voi. Quali sono i compiti dei bidelli? Ecco cosa dice il contratto. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne, alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita dalla classe, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Insomma, carta canta, i bidelli devono collaborare con gli insegnanti, sorvegliare ragazzi e bambini e la porta, ma soprattutto pulire. Direte voi, che bella novità, da che mondo è mondo i bidelli quello devono fare. In realtà giudicare dai vestiti dei nostri figli dopo un'ora di ginnastica o dai ciuffi di polvere sotto i banchi, quando anche noi su quei banchi ci sediamo durante le riunioni di classe, questo non è poi tanto scontato. A Rozzano, poi, alle porte di Milano, è successo anche di peggio. Il preside pretendeva che dessero una pulita anche al giardino. Apriti cielo, il giorno dopo tutti o quasi i bidelli si sono ammalati. Malattie quantomeno un po' sospette, secondo il preside dell'Istituto Calvino Marco Parma, che ci spiega come i bidelli pian piano stiano tornando a scuola. Stanno riconfluendo gradualmente. Ieri ne è rientrato uno, oggi ne è rientrata un'altra, lunedì rientrerà un altro ancora. Insomma, pian piano rientrano, insomma, hanno appunto quelle piccole malattie che fanno parte appunto di questa tattica di guerriglia. Al momento possiamo parlare solo di sospetti, nel senso che lei ha chiesto di pulire il giardino, hanno detto di no, poi si sono messi tutti malati. No, però no, un momento, è un sospetto. La cosa è un po' diversa, perché se non l'avessero fatto, allora è chiaro che a quel punto esiste la leva disciplinare, e in questo caso, cioè nel caso in cui di fronte a un ordine di servizio uno si rifiuta di eseguirlo, allora, cioè, se l'ordine è legittimo, uno fa un procedimento disciplinare e ha risolto il problema. Quindi l'hanno fatto, loro non sono così stupidi, loro hanno dovuto farlo, cioè hanno tentato di fare orecchio da mercante, no? Come sulla questione della pulizia delle finestre, che pulizia delle finestre all'esterno, no? Anche lì c'è una continua discussione, ma qui io è l'ottavo anno che sono qui, non sono arrivato l'altro ieri. Cioè non vogliono pulire le finestre perché quindi... è faticoso oppure pericoloso, qualcosa del genere? Non è né faticoso né pericoloso, assolutamente no. Però fa parte di un atteggiamento, più che il singolo, loro hanno una volontà larvata, ma questo tutti i bidelli del mondo, di autogestire il proprio lavoro, di organizzarsi da soli secondo i loro criteri, anziché eseguire le disposizioni che vengono impartite. Questo è il punto. E le disposizioni sono che, insomma, le aule, ma anche i vetri devono essere puliti ogni tanto, e magari una spazzatina anche al giardino ogni tanto ci può anche stare, no? Certo. Alla fine le finestre l'ha dovute pulire lei, invece? No, ho dato una dimostrazione. Ho dato una dimostrazione pratica, ero a Novera, dico al segretario, mi raccomando, faccia lavare i vetri, no? Perché poi ce l'hanno regolarmente nel loro mansionario. Lui li riunisce, li accarezza come al solito, li accarezza nel senso che li coinvolge nel lavoro, dice su ragazzi che Pasqua, su facciamo, vediamo, gli dicono sul muso, no, quello non si può fare. Allora, e non si può fare, è già una discussione annosa, perché ripeto, siamo qui da anni. Allora mi sono scocciato, ho preso un carrellino e l'ho portato in un'aula e gli ho lavato una finestra, stando ovviamente con i piedi sul pavimento e pulendo dall'interno il vetro esterno. Perché loro sostenevano che non si potesse fare, perché? Perché pericoloso? Ma no, perché pericoloso, perché vengono male. Perché il risultato sarebbe stato comunque insoddisfacente. Per uno che sta fuori dalla scuola è difficile capire queste cose. Ma guardi, ci siamo tutti a scuola, perché i figli a scuola ce l'abbiamo tutti, che arrivano con i ciuffi sui grembiuli di polvere, quindi non si preoccupi che tutti sappiamo come funziona a scuola. Ecco, e li vediamo anche, no? I bidelli che insomma non è che proprio abbondino per... No, spirito, diciamo, di iniziativa, che, ecco. Guardi che qui, come al solito, bisogna evitare di sparare nel mucchio. Perché tante resistenze? Ho una mia opinione, insomma, però... Non Qual è? La mia opinione è che semplicemente non hanno voglia di lavorare, tutto qua. I bambini italiani fanno fatica a pronunciare quello che sarebbe dovuto diventare il nuovo nome della scuola. Ma chi Gucci? Ma Cimbucci? Macchitucci. Quelli stranieri fanno fatica a pronunciare il vecchio nome. Carlo Pizzacane. Carlo Pizzacane. Carlo Pizzacane. Carlo Pizzacane. È Carlo Pizzacane. Voglio la mia scuola e si chiama solo Carlo Pizzacane e basta. L'avete capito, stiamo parlando del caso, anzi uno dei casi della settimana, una settimana che è stata davvero molto ricca dal punto di vista della cronaca scolastica. Siamo a Roma, scuola primaria Pizzacane appunto, 90% di bimbi stranieri e un agguerritissimo comitato mamme che chiede interventi perché questa non si trasformi in una scuola ghetto, ammesso che non lo sia già. La preside ha lanciato il sasso, cambiamo il nome da Pizzacane a Maki Gucci, un pedagogo giapponese. Poi il dietrofront imposto dal ministro Gelmini. L'integrazione non si fa in questo modo, ha spiegato il ministro, dimenticando una figura importante della storia italiana come quella di Carlo Pizzacane. Dello stesso parere anche i genitori dei bimbi italiani e stranieri della scuola. Secondo lei è meglio Pizzacane o Maki Gucci? C'ha i capelli bianchi Carlo Pizzacane, no? Assodato, no? Le piaceva l'idea di cambiare nome alla scuola e dovevano darle il nome di un giapponese, Maki Gucci? Io non sono d'accordo, perché siamo un paese italiano, quindi il nome della scuola italiana per me conviene che rimane lo stesso nome. Per me non sono d'accordo. Che c'entra come si chiamano? Maki Gucci. Maki Gucci. Se è buddista il direttrice o non lo so, e che c'entra che cambia il nome? Sì, è meglio, perché siamo in Italia, perché non dobbiamo conoscere le rue dell'Italia, proprio quella zona? Poi da tanti anni che questa scuola hanno chiamato così e fa parte della storia di questa zona, quindi... Secondo me una grande delusione, una cazzata proprio, una cazzata, è una scuola italiana. Quando sarà in Giappone una scuola con nome di italiano, è l'ora che facciamo anche noi una scuola giapponese qua. Insomma, non mi piace. Meglio Pizzacane. Eh sì. Meglio italiano, meglio questo che rimane, Pizzacane. Soddisfatta per la marcia indietro anche Flora Arcangeli, presidente del Comitato Mamme per l'integrazione della scuola Pizzacane di Roma. Ti piaceva l'idea di far cambiare nome alla scuola? No, assolutamente no, anzi noi la vediamo come l'ultima provocazione fatta in tempi proprio che si poteva benissimo evitare, visto appunto tutto ciò che è stato fatto in questi mesi. E soprattutto questo conferma, per quanto ci riguarda, il vero disegno, insomma, di questa direttrice, appunto che con l'iniziativa di cambiare nome e mettere un nome straniero, per lo più per i molti, non per tutti, però anche che sconosciuto e difficile da pronunciare, e appunto è la chiusura del cerchio, quindi ciò quello che noi stiamo dicendo ormai da 8 anni, e cioè che una scuola per stranieri ora ha anche il suo nome straniero, quindi un completo sradicamento in questo quartiere di una scuola storica dove molti i nostri genitori, anch'io sono andata, dove sto portando mio figlio, e credo che a questo punto non ci siano più i presupposti affinché avvenga una reale integrazione. Una integrazione non si fa in questa maniera, non si impongono, non si toglie a un quartiere ciò che invece fa parte integrante della sua storia. appunto avesse fatto una richiesta per un nome italiano comunque attinente alle sue teorie pedagogiche da seguire all'interno della scuola, non credo ci sarebbe stato tutto questo cancan mediatico intorno a questa storia, ma soprattutto noi l'abbiamo vissuta come l'ennesima beffa, l'ennesima provocazione a un quartiere che non si merita questo assolutamente. Ed è tutto anche per questo fine settimana, grazie a Chiara Di Michele per aver raccolto le voci fuori dalla scuola Pisacane di Roma, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.